Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il futuro di Fincantieri e la valorizzazione della filiera digitale del territorio, parla l'amministratore delegato Folgero. Il lavoro fisso è ancora un sogno per molti. A Pordenone in centinaia al concorso per 8 posti in comune. Intanto la regione cerca di attrarre i nomadi digitali. Valorizzare le filiere produttive tradizionali contro cibo sintetico ed etichette a semaforo, ecco carta FVG. Processo Regeni, il giudice per le udienze preliminari sentirà la Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri sulla disponibilità dell'Egitto a collaborare. Efficienza energetica, Udine, il Comune investe 8 milioni e mezzo per quasi 200 palazzi. San Valentino, amore e non solo, una serie di iniziative sulla violenza di genere, come riconoscerla e come difendersi. Esce L'avventura terrestre, il nuovo romanzo di Mauro Kovacic, intervista con lo scrittore triestino. Sci paralimpico, presentati i mondiali di Cortina e Sella Nevea, un percorso di inclusione dalle scuole al podio iridato. 7:19 minuti, buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Oggi martedì 14 febbraio, cominciamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del tempo sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo è ovunque sereno, le temperature delle 6, a Trieste 4 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone meno 1. Nell'area montana a Tolmezzo e a Sappada 1,5 gradi sotto zero, a Tarvisio meno 5, a Forni di Sopra 4 gradi positivi, sul Piancavallo 5 decimi di grado positivi, in quota abbiamo 7 gradi sul Monte Zoncolan, 6,5 gradi positivi sul Lussari, sulla costa Lignano 5 gradi e 5 decimi a grado 3. Ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno su tutta la regione. In pianura, nei fondovalle, marcate inversioni notturne, lo zero termico si manterrà intorno ai 3000 metri con temperature eccezionalmente alte per il periodo in quota. Apriamo con i temi dell'economia e del lavoro. La Fincantieri del prossimo futuro punta su 3 settori: energetico, con la costruzione di navi specializzate nell'eolico offshore, militare, con spese per la difesa navale e delle infrastrutture sottomarine prevista in crescita, e croceristica. L'amministratore delegato Pier Roberto Folgero ha illustrato la strategia durante un incontro alla LEF di San Vito al Tagliamento, fabbrica digitale modello. Sentiamolo. È un punto di riferimento, è il meglio del meglio. Sicuramente poi la strategia nostra è di portare tutto quello che validiamo nel resto dei cantieri. Oggi parliamo di come digitalizzare un cantiere e come aumentare la digitalizzazione di un cantiere, dai sistemi di ingegneria ai sistemi di progettazione in 4 dimensioni, i robot che saldano e tutti quegli interventi in cui la leva tecnologica aumenta la produttività, la qualità e la redditività di una manifattura. Si inserisce in questa visione la visita, assieme al Ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, alla LEF di San Vito al Tagliamento, la fabbrica digitale modello, polo di sperimentazione e formazione per le aziende, a cui partecipano anche ditte del Pordenonese che per le navi da crociera forniscono gli arredi. Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Favorire i commerci, favorire lo sviluppo anche di Fincantieri significa favorire una filiera lunghissima che arriva fino alle campagne, fino alla pedemontana, a tutte le aziende interessate. Su Varzi la Fincantieri ribadisce la volontà di attendere l'esito delle trattative da cliente stabile, partner tecnologico e co-innovatore. San Vito al Tagliamento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Erano oltre 700 gli iscritti al maxi concorso del comune di Pordenone che metteva a bando 8 posti. Alle prove scritte di ieri se ne sono presentati poco più della metà. Abbiamo sentito le voci di alcuni di loro. È stato il giorno della prova scritta per i 730 candidati che hanno partecipato al bando pubblico per 8 posti di struttura amministrativo-contabile categoria C del comune di Pordenone. Al palazzetto dello sport si sono presentati in 376. La dirigente comunale componente della commissione di concorso, Flavia Marastone. Collaborare con un ente pubblico è sempre un qualcosa di interessante, credo, per le persone. L'idea è proprio di inserire al momento le persone che ci servono, però per cercare anche di intervenire nel turnover che abbiamo sempre, avere una graduatoria a disposizione da poter utilizzare senz'altro è molto positivo. Ho già lavorato, ma cerco un posto abbastanza sicuro, diciamo. Ancora gola al posto fisso? Secondo me sì. Sono laureata in economia, quindi volevo provare e tento. C'ho già un lavoro, però a tempo determinato, quindi provo a quello a tempo indeterminato. Io sono già in graduatoria in quello che era stato bandito un po' di tempo fa per il D, la posizione D, però visto che insomma la graduatoria è un po' lunga, si prova ad entrare prima col C. Attualmente lavoro in pubblica amministrazione. Questo concorso, come mai hai deciso di farne un altro? Provare a aprire altre alternative, insomma, altre strade, vediamo. Che cosa ha letta di questo concorso? Sicuramente il posto fisso fa la differenza in questi tempi. Per i vincitori, contratto a tempo indeterminato e stipendio netto di 1.500 euro. Le prove orali da lunedì 27 febbraio in sala giunta del municipio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lavoro agile da casa, ma qui da noi la regione cerca di attrarre tutti i cosiddetti nomadi digitali e il progetto di fidelizzazione coinvolge anche l'Università di Udine. Agevolare lo smart working, approcciandosi al tema in maniera scientifica. La regione punta sul lavoro agile e parte da una ricerca di SVG assieme all'Università di Udine, una risorsa utile che dopo il boom pandemico ha avuto una frenata, soprattutto nelle piccole e medie imprese che rimangono sospettose sullo strumento. L'assessore al lavoro Alessia Rosolen lo vede come un potenziale incentivo a natalità e alla riduzione della disparità di genere, ma anche allo sviluppo dei territori meno popolati e alle aree interne. Secondo lo studio, solo il 54% delle aziende in Friuli Venezia Giulia ha agevolato il lavoro da remoto fornendo software e connessioni, mentre una percentuale significativamente inferiore è intervenuta sugli orari e sulla formazione. L'obiettivo dell'Agenzia Regionale Lavoro e Sviluppo Impresa è quello di attirare in regione nomadi digitali che si fermino per un lungo periodo e che magari possano rimanere diventando nuovi residenti. Anna Zilli, docente dell'Università di Udine. Quello che l'università può fare è dare un supporto giuridico serio, completo e informato a tutti i soggetti che devono lavorare su questi argomenti. In questo senso abbiamo scritto un vademecum ampio che permette una fruizione a tutti i livelli. Abbiamo pensato di parlare con i lavoratori, con gli imprenditori, ma anche con i loro consulenti e infine, ma non per ultimi, anche con i sindacati e le associazioni di categoria. Tra i progetti della regione, quello di una proposta di una norma di materia di lavoro agile che prevede contributi per la costruzione e l'ampliamento di centri di co-working. L'idea sarebbe quella di aprirne uno a Grado, dove già vivono lavoratori stranieri che si organizzano per conto proprio. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia passa al contrattacco sulle etichette a semaforo sui prodotti alimentari e su quelle dell'Irlanda sulla pericolosità del vino e presenta un documento in 6 punti che si prefigge di contrastare questi sistemi. La carta FFG è stata illustrata dal presidente del Consiglio regionale Zanin, tra gli obiettivi anche quello di arrivare al divieto di commercializzare il cibo sintetico e una serie di azioni educative per valorizzare le filiere produttive tradizionali. Il documento verrà presto portato all'attenzione della conferenza che riunisce tutti i consigli regionali e le province autonome, in vista di una firma nella nostra regione. Ora i lavori del Consiglio regionale, la giornata di oggi sarà centrata sull'esame del disegno di legge proposto dalla Giunta sugli interventi in materia di immigrazione. All'ordine del giorno anche la prima parte dell'esame della proposta di legge con le misure per la semplificazione e la crescita economica. Ieri intanto via libera la norma sui caregiver. Approvata all'unanimità anche dal Consiglio regionale, come già in terza commissione, la norma per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del caregiver familiare, un passo importante e condiviso dalle forze politiche che, è stato richiamato da più parti, hanno saputo fare sintesi tra diverse proposte in campo sulla bocciatura da parte della maggioranza della richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge sul tema dell'acquisto dei crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni da parte della Regione. Tutti i gruppi di opposizione in una conferenza stampa congiunta hanno rimarcato che ciò significa ritardare di mesi la questione a danno delle imprese e dei cittadini che devono fare gli interventi. Tematica già da tempo all'attenzione dell'esecutivo regionale, ha ricordato l'assessore alle finanze Zilli, ma non ancora pronta per essere affrontata a livello legislativo. Servono adeguati approfondimenti anche a livello ministeriale, ha aggiunto. L'Aula ha quindi accolto a maggioranza il disegno di legge con cui la Regione mette a disposizione 52 milioni di euro in 3 anni per progetti di investimento su obiettivi strategici e ha approvato all'unanimità la mozione con la quale si chiede che il governo vieti qualsiasi spedizione di materiale militare da Trieste all'Egitto e ai paesi che violano i diritti umani. Iniziativa assunta anche per rispetto a Giulio Regeni, ha spiegato Onsel di OpenFVG che l'ha promossa. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo proprio del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani saranno sentiti il 3 aprile per riferire in merito alla disponibilità a collaborare con le autorità del nostro paese espressa dal Presidente egiziano Al-Sisi nelle settimane scorse. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma. Il servizio di Angela Caponnetto si apre con la voce di Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Alla luce delle dichiarazioni rese ai media dalla Premier Meloni e dal Ministro degli Esteri Tajani circa le rassicurazioni o addirittura state chiamate promesse, abbiamo chiesto di sentire la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri. Il governo è chiamato a testimoniare nell'intricato procedimento per l'omicidio di Giulio Regeni. Il prossimo 3 aprile saranno infatti sentiti come testimoni la Presidente Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per verificare se esiste una reale disponibilità da parte delle autorità egiziane a collaborare con i nostri inquirenti, come avrebbe riferito lo stesso Presidente Al-Sisi alla Premier e al Ministro. A coinvolgere il governo italiano qualche giorno fa la Cassazione, con le motivazioni alla sentenza del 15 luglio 2022 in cui veniva respinto il ricorso della Procura contro la decisione di sospendere il processo perché fino ad ora è stato impossibile notificare gli atti ai 4 agenti della sicurezza egiziani accusati a vario titolo di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano. La Suprema Corte, in sostanza, rimanda al governo l'impegno a far uscire quegli indirizzi dal Cairo necessari per poter far partire il processo e ottenere quella verità e giustizia che i familiari chiedono da 7 anni, anni in cui sono sempre stati supportati dalla presenza della scorta mediatica composta da giornalisti, società civile e artisti. Appuntamenti politici di oggi in regione: questa sera il segretario nazionale di Italexit Gianluigi Paragone sarà a Pordenone alle 19 in piazza 20 settembre per presentare con il coordinatore regionale Iraqa un'iniziativa dal titolo L'Europa, meccanismo europeo di stabilità e insetti da mangiare, ovvero come l'Europa danneggia l'Italia. Nella circostanza si potrà firmare per la lista Insieme Liberi. A Trieste, prima uscita pubblica di Alessandro Maran come candidato del Terzo Polo alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia. Presenterà il suo progetto al Caffè San Marco alle 18. A sostenere Maran ci sono Azione, Italia Viva, Più Europa, i Civici di Regione Futura e i Liberal Democratici Europei. E questa mattina saranno presentati a Trieste i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali per la circoscrizione di Trieste. Nella sede del partito in via della Geppa alle 10.30 la segretaria provinciale Caterina Conti illustrerà l'avvio della campagna elettorale e i candidati tracceranno un breve profilo del loro impegno personale. Il comune di Udine investe più di 8 milioni e mezzo per migliorare l'efficienza energetica di quasi 200 palazzi. La riqualificazione complessiva è stata affidata a Era Servizi Energia. Un unico contratto non solo per le bollette del gas, ma anche per la manutenzione degli impianti e soprattutto per gli investimenti. 8 milioni 700 mila euro nello specifico per migliorare l'efficienza energetica del 63% del patrimonio edilizio del comune di Udine, 193 edifici tra scuole, uffici e palestre. Al posto di intervenire palazzo per palazzo, il comune ha optato per un unico pacchetto chiavi in mano, affidando la riqualificazione energetica a Era Servizi Energia. A fronte del pagamento di un unico canone per i prossimi 15 anni, la società si impegna nei prossimi 3 a realizzare interventi per avvicinare la città all'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 quasi della metà entro il 2030. Cappotto termico, sostituzione serramenti, generatore di calore, nuove valvole termostatiche. Con questi interventi una scuola media come la Valussi consumerà il 18% in meno di energia. Altrove verranno installati impianti fotovoltaici e per il solare termico. Il valore totale del contratto è di 30 milioni di euro. Include anche l'informatizzazione e la gestione da remoto degli impianti. Un accordo tra pubblico e privato, in questo caso con sede a Udine, che permette investimenti difficilmente sostenibili altrimenti dalle amministrazioni comunali. Il fabbisogno di energia termica degli edifici interessati passerà da 19 gigawattora l'anno a 16, riducendo l'uso del metano ed eliminando del tutto quello del gasolio, un risparmio energetico annuo paragonabile al consumo di 4.500 famiglie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cosa sono le strutture per anziani oggi e cosa saranno domani? Quali persone accoglieranno e assisteranno in futuro e che modello di assistenza potranno garantire? Sono le domande a cui si cercherà di rispondere nel convegno Le sfide della residenzialità, modelli a confronto per gli anziani, in programma a Trieste da questa mattina alle 9 nell'auditorium del Museo Revoltella. A dialogare saranno i rappresentanti di Regione, Comune di Trieste, aziende sanitarie, associazioni di categoria e sindacati. San Valentino per parlare e riflettere sulla violenza di genere, come riconoscerla e soprattutto come difendersi. È il filo conduttore che lega i due eventi organizzati oggi dal coordinamento donne della CISL del Friuli Venezia Giulia alla Casa dello Studente di Pordenone. Si partirà alle 10.15 con un incontro dedicato alle classi di alcune scuole superiori. Alle 10.15. Alle 15 nel pomeriggio invece il confronto si sposterà verso una platea adulta con l'incontro I segnali della violenza che non sappiamo vedere. Abbiamo sentito la coordinatrice donne della CISL del Friuli Venezia Giulia, Alessia Cisorio. Abbiamo scelto la giornata del 14 di febbraio proprio in modo provocatorio perché a volte si interpreta insomma la parola amore quello che amore non è. Quindi l'obiettivo della giornata è proprio quello di far capire quanto la parola è preziosa nelle interazioni con gli altri e vuole essere appunto un'esperienza positiva affinché tutti noi diventiamo degli attori inclusivi per abbattere qualsiasi forma di violenza essa sia e riteniamo che questo debba avvenire proprio a partire dai giovani. Quali sono le azioni che come sindacato ritenete che bisogni portare avanti per contrastare la violenza di genere e anche le altre forme di discriminazione? Ma assolutamente attraverso la formazione, la sensibilizzazione, insomma quello di far capire che nella violenza non ci devono essere pregiudizi, cosa che la società è intrinseca proprio di pregiudizi e quindi l'obiettivo è questo, quello di dare una giusta interpretazione alla parola. Come mai avete pensato di coinvolgere la scrittrice Ilaria Bonuccelli che parteciperà agli eventi della giornata di oggi? Ma diciamo che la CISL comunque è un sindacato che è attento e soprattutto che punta insomma ai giovani, alle attenzioni verso i giovani e verso le donne, per cui la scrittrice Ilaria Bonuccelli è una scrittrice insomma coinvolgente che insomma ha avuto diverse esperienze con i giovani, per cui ci piaceva l'idea insomma di poterci relazionare proprio con un pubblico diverso dal solito, ma che ci desse insomma delle idee molto diverse rispetto a quelle degli adulti, quindi capire qual è il loro mondo. Mettere a confronto le esperienze coinvolte nel progetto, integrare e diffondere le buone prassi, creare una rete tra le amministrazioni pubbliche e sensibilizzare i comuni che ancora non hanno attivato una commissione per le pari opportunità. Questi gli obiettivi dell'evento, le pari opportunità in Friuli Venezia Giulia, che si svolge nel pomeriggio a Udine nella sede della Regione. L'incontro è promosso dalla Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna del Consiglio regionale. A Gorizia i preparativi per il 2025 stanno facendo registrare un grande fermento di progetti. Ieri è stato presentato quello per il passaporto delle lingue. Un passaporto che si apre con fogli vuoti e altri riempiti di timbri, come visti veri e propri. Ma invece di paesi visitati, si mettono nero su bianco le lingue studiate, anche solo per un'infarinatura di poche ore. Italiano, sloveno, friulano, tedesco ed ebraico. Idiomi che si parlano, si sono storicamente parlati a Gorizia. Il progetto, finanziato dalla regione, è rivolto agli studenti medi. Partecipano in questa prima fase la scuola Ascoli di Gorizia e la primaria di Salcano, quartiere di Nova Gorizia. Ha messo a punto l'iniziativa l'associazione Kulturhaus Gertz, che organizzerà a giugno la prima edizione del Festival delle Lingue. Jens Colata, dell'associazione Kulturhaus Gertz. Qua sul territorio c'è il problema che negli ultimi anni, anche da parte anche in Slovenia, si impara un po' meno italiano di una volta. Qua a Gorizia, oppure in Italia, in generale, si parla forse ancora troppo poco sloveno. Dunque è un progetto che parte da queste due lingue, però vuole creare curiosità, consapevolezza. Il progetto prepara a Gorizia 2025, quando le due città di confine saranno insieme capitali della cultura europea. Ma quanto sono interessati al tema i giovani goriziani? Lo abbiamo chiesto a Laura Trevisan, docente della scuola media Ascoli. Pian pianino i ragazzi si stanno avvicinando, vivendolo proprio come un'opportunità di conoscenza. Siamo a pochi passi da Nova Gorizia, da uno stato europeo, ma alla fine ci conosciamo poco e quindi l'apprendimento delle lingue straniere è proprio abbattere i confini, avvicinarsi. Intanto di Gorizia 2025 si è tornato a parlare in un incontro tecnico presieduto dall'assessora alle finanze Barbara Zilli in regione. previsto, tra le altre cose, un potenziamento per la rete e le infrastrutture dei trasporti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre a Gorizia, questa mattina alle 11.15 alla Mediateca Ugo Casiraghi verrà presentato il manifesto dell'economia del cinema nella regione Friuli Venezia Giulia, in cui verranno illustrati i risultati di un questionario che analizza il sistema cinematografico e audiovisivo regionale. Sentiamo Filippo Allegrini, coordinatore della Cross Border Film School di Gorizia, che ha ideato il questionario. Qual è lo stato di salute del settore del cinema e dell'audiovisivo in Friuli Venezia Giulia? Allora, sicuramente il settore cinematografico e audiovisivo in Friuli Venezia Giulia in questo momento è molto in crescita, è molto positivo, siccome anche analizzando i dati appunto che forniti dalla Film Commission si nota come rispetto alla nascita della Film Commission intorno al 2000, i dati riferiti al 2004, c'è una crescita esponenziale dell'indotto economico che appunto ha portato il lavoro della Film Commission sul territorio. Quali sono invece i suggerimenti che emergono da questo questionario che voi presenterete oggi? E noi appunto facciamo notare dalle caratteristiche del questionario che sono appunto necessari maggiori finanziamenti dedicati soprattutto alle coproduzioni Italia-Slovenia per appunto la crescita di un settore transfrontaliero che per i professionisti che hanno partecipato al questionario è appunto un passo molto importante, ma anche la formazione in lingua inglese per un'internazionalizzazione del territorio è una cosa molto gettonata, ma soprattutto il potenziamento delle strutture tecniche e di service per la produzione e la post-produzione. La pagina della cultura da oggi nelle librerie, il nuovo romanzo di Mauro Kovacic si intitola L'avventura terrestre, lo pubblica come i più recenti dello scrittore triestino La nave di Teseo. Nella vicenda che racconta ci sono un lui, una lei e un altro, ma anche la paura per un improvviso malanno fisico che tende a sovrapporsi a tutto. Il romanzo sarà presentato a Trieste il 25 marzo in un reading al Politeama Rossetti in collaborazione con la casa editrice. Nell'annunciare questo libro qualche tempo fa Kovacic spiegava come l'inconsueto uso per lui della terza persona gli avesse dato una inedita libertà. Ma è sempre l'autore, gli chiediamo, a trovarsi sotto la lente narrativa e qual è il prezzo di questa libertà? Al momento io sento solo vantaggi, nel senso che l'esperimento che ho fatto di gettarmi in mezzo agli altri, di solito mi sono sempre guardato scavando all'interno, in questo caso ho girato la telecamera dall'altra parte e mi sono guardato immaginando che potessi essere uno delle persone che vedo per strada, diciamo, delle persone in mezzo, mi sono messo in mezzo agli altri, vado a raccontarmi, quindi inventarmi di fatto, come se non mi conoscessi. C'è un uomo maturo, forse l'autore di oggi, che osserva un giovane, questa è la prima scena, e la scena è raccontata dal giovane. Com'è guardarsi alle spalle e trarne una vicenda che forse noi potremmo definire joyciana da Ulisse, un mondo di conoscenze concentrato in poche ore? Mi fa molto piacere questo riferimento a Joyce. In effetti anche il mio romanzo si regge su una triangolazione di un uomo più giovane, un uomo di mezza età e una donna. Quest'uomo di mezza età vede il ragazzo, ma nello stesso tempo è il ragazzo che vede l'uomo, nel senso che a un certo punto nel romanzo non si capisce più chi guarda l'altro. Quello che so, diciamo, che questi due uomini sono destinati a incontrarsi, ecco, a incontrarsi in un romanzo sulla paura, perché poi la paura è il centro di questo romanzo. Nel cuore del libro c'è una gravidanza, poi un'interruzione volontaria desiderata dal maschio e una paternità rimpianta. Quanto sono centrali queste pagine? Sono delle ferite attorno alle quali crescono le vite dei protagonisti. Io credo che le vite di tutti noi crescano proprio attorno anche a delle gravi ferite che noi cerchiamo di immaginare nel corso del tempo. Queste vite, poi non è retorico secondo me dire che queste ferite poi ci arricchiscono, nel senso che fanno parte della nostra storia personale. Gli spettacoli ora. Debutta Udine al Teatro Nuovo, Il berretto a sonagli, con Gabriele Lavia in scena e alla regia con Federica Di Martino. Scritto in siciliano da Luigi Pirandello nell'agosto del 1916 e poi riadattato in italiano, Il berretto a sonagli è la tragicommedia che forse meglio mette in luce, fra le opere dello scrittore siciliano, vizi, meschinità, falsità e inganni della società contemporanea malata di menzogna. Sarà in scena Udine anche domani, preceduto dall'incontro con il pubblico da parte di Gabriele Lavia, intervistato da Roberto Canzoni. Su un'altra lunghezza d'onda lo spettacolo che Francesca Reggiani porta da oggi in regione a partire dal Cinecity di Lignano. La comica e imitatrice sarà nei prossimi giorni a Zoppole e Spilimbergo. Il titolo del suo monologo è Gatta morta. Nella versione disponibile su RaiPlay ecco come l'attrice racconta l'onnipresente crisi. È una delle prime parole che un bambino impara. Mamma, papà, crisi. Mi risulta che noi in crisi ci stiamo da un sacco di tempo, tant'è vero che decisamente siamo abituati, certamente adesso c'è stato un incremento, al fatto che non girino più i cosi. Come si chiamavano i cosi? I soldi, grazie. No, che ogni tanto c'ho un po' di amnesia. Non so se si ricorda quando giravano i soldi, che c'erano anche i negozi. Quei posti in muratura con le vetrine su strada che potevi entrare e comperare qualcosa. Ecco, non so se il termine comperare vi evoca qualcosa. Altri spettacoli di oggi. Ancora a Udine, per la stagione degli Amici della Musica, spicca il concerto dello Yes Trio Vien, formazione composta dai tre fratelli austriaci Elisabeth, Johannes e Stefan Yes Kropfisch, violino, violoncello e pianoforte, che tiene concerti in tutto il mondo da più di 30 anni. La prima volta per gli Amici della Musica fu nel 1988, un debutto rimasto negli annali del sodalizio, e stasera il trio proporrà lo stesso programma di allora, con musiche di Mozart e Schubert. Dalla fiaba di Perrault alla drammatica attualità dei femminicidi che percorre le nostre cronache e Barba Blu nella versione di Costanza Di Quattro, la regia di Monio Vadia e l'interpretazione dell'artista cantastorie Mario Incudine. La rilettura in chiave attuale di quella celebre storia sarà in scena solo oggi e domani a Trieste in Sala Bartoli. Doppio impegno in regione per la Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, che oggi sarà a Sacile al Teatro Zancanaro con la nuova produzione della compagnia Ballad, firmata da due tra i più apprezzati coreografi italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Domani sera l'appuntamento sarà invece al Teatro Sociale di Gemona per la serata a doppio titolo Gershwin Suite Schubert Frames, coreografata da Enrico Morelli e Michele Merola. E ora lo sport. A Milano sono stati presentati i campionati mondiali di sci paralimpico che vedranno coinvolta Sella Nevea. Sport, inclusione e promozione del territorio. Ci sarà tutto questo nelle finali di Coppa del Mondo di sci paralimpico che si disputeranno a Cortina e a Sella Nevea. Nella località friulana le prove di velocità, mentre in quella ampezzana saranno di scena le prove tecniche. Le gare di discesa libera sulla pista del Canin il 9 e 10 marzo, poi sarà la volta del super gigante il 12. Si tratta di un'ulteriore straordinaria opportunità di valorizzazione del nostro territorio, ha detto l'assessore regionale Emidio Bini nel corso della presentazione dell'evento alla Fondazione Milano Cortina 2026. Il valore dell'Italia nello sci paralimpico è dato dal primo posto assoluto nel medagliere per nazioni, con 12 podi conseguiti ai mondiali di Espot in Spagna. Sul piano sociale, invece, lo sport si conferma veicolo primario di inclusione, in particolare in Friuli Venezia Giulia. Lo sottolinea l'associazione Sport Ixol di Monfalcone, che organizza l'evento insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. Tutto inizia dai ragazzi, sensibilizzati da prima nelle scuole, condividendo i video degli atleti paralimpici, portandoli poi sulle piste a tifare e facendo infine un percorso di psicomotricità. Sono ormai più di 3.000 i ragazzi che hanno fatto negli anni questo percorso. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7:46, ecco la nostra rassegna stampa. La regione contro le etichette europee e il cibo sintetico, presentata la carta FVG in difesa dei prodotti tipici. È questo il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, che poi a centropagina dedica una fotonotizia all'ultimo consiglio comunale prima delle elezioni. I richiami in prima pagina sono dedicati alla vicenda di Giulio Regeni con i giudici che chiamano a testimoniare Meloni e Tajani e alla scuola con questa notizia: contesta al 90 preso alla maturità il taglio VAR le dà ragione. Infine, lo sport con le dichiarazioni dell'ex giocatore dell'Udinese Jankto: sono gay, basta nascondersi. Le pagine della cronaca cittadina si aprono invece sulla sanità. L'anno scorso eseguiti 102 trapianti di organi, aumentano i donatori. Il bilancio del coordinatore del centro ospedaliero Roberto Peressutti. Sull'edizione di Pordenone una fotonotizia in alto è dedicata al maxi concorso del comune, titolo Il sogno del posto pubblico. L'apertura è invece sul caso delle criptovalute, fermati nell'Emirato i due trevigiani della nell'Emirati Arabi i due trevigiani della società NFT. Rischiano fino a 10 anni per frode. I richiami sono dedicati invece al PD che ha approvato le candidature per le regionali e all'ambiente, aumenta lo smog, un nuovo piano anti-inquinamento. Al maxi concorso è dedicata anche l'apertura della cronaca cittadina. Di 700 candidati, quasi metà ha rinunciato, dopo la prova scritta di ieri ne sono rimasti in 152. Eccoci al Piccolo, che propone prime pagine molto diverse per le due edizioni. L'apertura di quella di Trieste dice: crisi Varsila, l'impegno di Fincantieri, l'amministratore delegato Folgero conferma l'attenzione per il futuro del sito e aggiunge: la croceristica è tornata ai livelli pre-Covid. L'altro titolo forte su questa edizione è La città delle statue, con una grande foto di quella di Joyce e all'interno un ampio servizio sulla proposta di un nuovo monumento, stavolta dedicato all'inventore dell'elica Josef Reis. Proposta dall'assessore regionale Scocimarro, e tra le opzioni c'è la zona dell'ex sala Tripkovic, alla quale però il sindaco di piazza per il momento dice no. Dalla cronaca cittadina anche l'ultima puntata della vicenda Cabinovia, in consiglio comunale rinviata la discussione sulla variante. E poi il punto sulla prevendita per il concerto dei Maneskin a Rocco: 10.000 i biglietti già venduti nella prima giornata ieri, e un articolo di Cristina Benussi sul nuovo libro di Mauro Kovacic. Tema che merita un richiamo in prima pagina anche la lotta alle etichette a semaforo sui cibi, che diventa l'apertura sull'edizione di Gorizia e Monfalcone, abbinato alla svolta di Gusti di Frontiera, che anticipa la festa e cambia la mappa, titola il quotidiano. Nuove date dal 21 al 24 settembre per allontanarsi dalla Barcolana. Alcuni stand saranno spostati per il cantiere ai Giardini. L'apertura della cronaca di Monfalcone invece per l'allarme arrivato dalla riunione dell'ambito socio-assistenziale. Cresce la carenza di alloggi in città, i privati non affittano per paura di non riscuotere i canoni. Anche il dorso pordenonese del Gazzettino dedica l'apertura al caso criptovalute. Adesso i responsabili paghino, dice il procuratore Tito, che aveva avviato l'indagine. In alto una notizia sulle nuove rotte che rilanciano l'aeroporto regionale: Barcellona, Valencia, Tirana e Dublino presto al decollo. Spazio infine al calcio, con il responsabile dell'area tecnica del Pordenone, Lovisa, che dice Di Carlo non è in discussione. E poi una notizia di ciclismo: il cycling team celebra gli ori di Milan. Il titolo del dorso di Udine è invece sulla sanità. Primo soccorso, riaperti due presidi a Gemona e Cividale. Spazio poi per una fotonotizia sui progetti ecologici del comune di Udine: svolta verde, crolleranno i consumi. E per il calcio, Udinese 5 mesi senza luce. Chiudiamo la rassegna stampa, torniamo al nostro notiziario con alcuni appuntamenti per la giornata di oggi. Quanti sono le ragazze e i ragazzi che abbandonano la scuola ogni anno e perché lo fanno? Cosa fare affinché gli svantaggi iniziali o il diverso retroterra culturale non pesino sul percorso scolastico? Domande che ci si pone quando si riflette sul futuro della scuola e delle politiche di inclusione. Questi temi saranno al centro di un incontro pubblico a Trieste alle 18 al Ricreatorio Toti con l'antropologa Roberta Altin e il suo gruppo di ricerca dell'Università di Trieste. Partecipano tra gli altri Dario Gasparo, insegnante, Riccardo Taddei della comunità di San Martino al Campo e Susanna Tessaro, dirigente scolastica. Un altro appuntamento culturale di oggi: a Trieste, alla libreria Lovat, alle ore 18, Paola Russo presenta il suo dizionario romanzato Dalla A alla Zoccola. Intervengono gli attori Lorenzo Acquaviva, Andrea Mitri e Lorenzo Zuffi. Un grande cuore luminoso ha preso forma in Piazza della Borsa a Trieste per celebrare la ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati. Il cuore brillerà in città fino al 20 febbraio e darà la possibilità a tutti di fermare la propria immagine con il simbolo per eccellenza dell'amore. Un hashtag dedicato, Cancelletto Trieste in Love, potrà essere utilizzato da tutti coloro che vorranno pubblicare le loro foto sui social taggando il Comune di Trieste e Discover_Trieste. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Dopo la rubrica in friulano, che oggi si occuperà della stagione turistica invernale a Sappada, andrà in onda il programma scientifico Radar. Al centro della puntata di oggi, la degenerazione del rapporto di coppia e le varie conseguenze, tra cui la violenza di genere. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Sono le 7:52 minuti, vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo dunque a metà mattinata per l'edizione Flash, poi alle 12:30 per l'edizione Meridiana, ma vi ricordiamo che le notizie della TGR proseguono sul web e sui social. Grazie per la vostra attenzione, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.